Ebbene, lungi dal credermi infelice di questa vita senza amici, senza conversazione, come ai più grandi è capitato di credersi, mi rendevo conto che le forze d'esaltazione che si spendono nell'amicizia sono una sorta di sporgenza verso un'amicizia particolare che non porta a nulla e allontana da una verità cui esse sarebbero capaci di condurci. Ma insomma, quando mi fosse stata necessaria qualche pausa di riposo e di compagnia, sentivo che assai più delle conversazioni intellettuali che la gente di mondo ritiene utili agli scrittori, leggeri amori con fanciulle in fiore sarebbero stati, a rigore, un alimento scelto da consentire alla mia immaginazione, simile al cavallo famoso che veniva nutrito solo di rose. Di colpo tornavo a desiderare ciò che avevo sognato a Balbec, quando, senza conoscerle ancora, avevo visto passare sullo sfondo del mare Albertine, André e le loro amiche. Ahimè, quelle di cui provavo proprio in quel momento un desiderio così forte, non potevo più sperare di trovarle. L'azione degli anni, che aveva trasformato ogni essere da me incontrato oggi, compresa la stessa Gilbert, aveva fatto sicuramente di tutte quelle che sopravvivevano, come avrebbe fatto di Albertine se non fosse morta, delle donne troppo diverse dal mio ricordo. Soffrivo d'essere intimamente costretto a raggiungerle, giacché il tempo che muta gli esseri non modifica l'immagine che di loro abbiamo serbato. Niente è più doloroso di questo contrasto fra l'alterazione degli esseri e la fissità del ricordo, quando ci rendiamo conto che ciò che ha conservato tanta freschezza nella nostra memoria non può più averne alcuna nella vita, che non possiamo all'esterno avvicinarci a ciò che ci sembra così bello dentro di noi, a ciò che suscita in noi il desiderio, peraltro così individuale, di rivederlo, se non cercandolo in un essere della stessa età. Vale a dire, in un altro essere. Il fatto è che quanto sembra unico in una persona desiderata non appartiene ad essa. Spesso ne avevo avuto il sospetto, ma il tempo trascorso me ne dava una prova più completa, giacché dopo 20 anni io volevo spontaneamente cercare, al posto delle fanciulle conosciute un tempo, quelle che possedevano ora la giovinezza che esse avevano allora. D'altronde non è il solo risveglio dei nostri desideri carnali a non corrispondere ad alcuna realtà, in quanto non tiene conto del tempo perduto. A volte mi succedeva di desiderare che, grazie a un miracolo, mi comparissero accanto, rimaste vive contrariamente a quanto avevo creduto, la nonna, Albertine. Mi sembrava di vederle. Il mio cuore si slanciava verso di loro. Dimenticavo solo una cosa: che se fossero state vive, Albertine avrebbe avuto all'incirca l'aspetto offertomi da Madame Cottard a Balbec, e la nonna, a più di 95 anni, non mi avrebbe mostrato nulla del bel viso calmo e sorridente con cui ancora adesso la immaginavo, non meno arbitrariamente di come si attribuisce una barba al Padre Eterno. O nel XVII secolo si raffiguravano gli eroi di Omero, ridicolmente abbigliati da gentiluomini e senza tener conto della loro antichità. Guardavo Gilbert e non pensai vorrei rivederla, ma le dissi che mi avrebbe sempre fatto piacere essere invitato a casa sua assieme a delle ragazze molto giovani, possibilmente povere, in modo da poterle fare contente con qualche piccolo regalo, senza chiedere loro, d'altronde, più che di far rinascere in me le fantasticherie, le tristezze d'un tempo e forse un giorno improbabile un casto bacio. Gilbert sorrise e parve poi riflettere seriamente fra sé. Come Elstir voleva vedere incarnata davanti ai propri occhi in sua moglie, la bellezza veneziana tante volte dipinta nei suoi quadri. Io davo a me stesso la scusa d'essere attratto da un certo egoismo estetico verso le belle donne che potevano farmi soffrire, e avevo un certo sentimento di idolatria per le future Gilbert, le future duchesse di Guermont, le future Albertine che avrei potuto incontrare e che mi sembrava avrebbero potuto ispirarmi, come uno scultore che s'aggira fra bei marmi antichi. Avrei dovuto pensare, tuttavia, che anteriore a ciascuna era il mio sentimento del mistero in cui esse erano immerse e che dunque, più che chiedere a Gilbert di farmi conoscere delle fanciulle, avrei fatto meglio ad andare là dove niente ci avvicina a loro, dove fra loro e noi sentiamo qualcosa di invalicabile, dove a pochi passi di distanza, sulla spiaggia, ai bagni, si sente che l'impossibile ci separa da loro. È così che il mio sentimento del mistero aveva potuto applicarsi via via a Gilbert, alla duchessa di Guermont, ad Albertine, a tante altre. Certamente l'ignoto e quasi l'inconoscibile era diventato il noto, il familiare, indifferente o doloroso, ma aveva conservato qualcosa di ciò che era stato il suo fascino. E per dire il vero, come in quei calendari che il postino ci porta perché gli diamo la mancia natalizia, non c'era stato un solo anno della mia vita che non avesse avuto sul frontespizio o intercalata fra i giorni l'immagine d'una donna desiderata. Immagine, spesso, tanto più arbitraria in quanto quella donna, a volte, non l'avevo mai vista. Come quando s'era trattato, per esempio, della cameriera di Madame Putbus, di Mademoiselle d'Augeville, o d'una certa fanciulla di cui avevo letto il nome nella cronaca mondana d'un giornale fra lo sciame delle incantevoli danzatrici di valzer. La immaginavo bella, mi innamoravo di lei e le componevo un corpo ideale, dominante con tutta la sua altezza un paesaggio della provincia in cui si trovavano, come avevo letto nella Nuire des Châteaux, le proprietà della sua famiglia. Per le donne che avevo conosciute, quel paesaggio era perlomeno duplice. Ciascuna si ergeva in un punto diverso della mia vita, innalzata come una divinità protettrice e locale, prima nel mezzo d'uno di quei paesaggi sognati, la cui giusta posizione quadrettava la mia vita e dove m'ero sforzato di immaginarla, poi vista dalla parte del ricordo, attorniata dai luoghi in cui l'avevo conosciuta e che lei mi ricordava restando legata ad essi. Perché se la nostra vita è vagabonda, la nostra memoria è sedentaria e per quanto noi ci slanciamo senza sosta, i nostri ricordi restano inchiodati loro ai luoghi da cui ci stacchiamo, continuano a combinarvi la loro vita casalinga, come gli amici momentanei che il viaggiatore si è fatti in una città ed è costretto ad abbandonare quando la lascia, perché è lì che loro, che non partono, finiranno la loro giornata e la loro vita, come se lui ci fosse ancora, accanto alla chiesa, davanti al porto, sotto gli alberi del corso. E così l'ombra di Gilbert non si allungava soltanto davanti a una chiesa dell'Île-de-France, dove l'avevo immaginata, ma anche sul viale d'un parco dalla parte di Meseglise, quella di Madame de Guermont, in un sentiero umido, dove salivano a conocchia grappoli viola e rossastri, o sull'oro mattutino d'un marciapiede di Parigi. E questa seconda persona, quella nata non dal desiderio, ma dal ricordo, non era per ciascuna di queste donne unica. Ciascuna, infatti, l'avevo conosciuta a varie riprese, in tempi diversi, in cui per me lei era un'altra o io stesso ero altro, immersi in sogni d'un altro colore. Ora, la legge che aveva regolato i sogni di ciascun anno manteneva, adunati attorno ad essi, i ricordi d'una donna conosciuta allora. Tutto ciò che concerneva, per esempio, la duchessa di Guermont al tempo della mia infanzia era concentrato in virtù d'una forza attrattiva, attorno a Combray, e tutto ciò che aveva a che fare con la duchessa di Germain all'epoca in cui stava per invitarmi a colazione attorno a un essere sensitivo affatto diverso. C'erano più duchesse di Germain come c'erano state, a partire dalla signora in rosa, più Madame Swann, separate dall'etere incolore degli anni. Né potevo saltare dall'una all'altra, più che se avessi dovuto passare da un pianeta a un altro pianeta, che l'etere separa dal primo. Non solo separata, ma diversa. Adorna dei sogni da me fatti in tempi tanto diversi come di una flora particolare che in un altro pianeta non si sarebbe ritrovata. Al punto che dopo aver pensato che non sarei mai andato a colazione né da Madame de Faucheville né da Madame de Germain, potevo dirmi, tanto questo m'avrebbe trasportato in un altro mondo, che la seconda non era una persona diversa dalla duchessa di Germain, discendente da Genoveffa di Brabante, e la prima dalla signora in rosa, solo perché in me un uomo istruito me ne assicurava con la stessa autorità con cui uno scienziato avrebbe potuto assicurarmi che una via lattea di nebulose è dovuta alla frammentazione d'una medesima e unica stella. Così Gilbert, alla quale chiedevo peraltro, senza rendermene conto, di fare in modo che io avessi delle amiche quale era stata lei in altri tempi, non era più per me che Madame de Saint-Leu. Non pensavo più, vedendola, al ruolo che aveva avuto un tempo nel mio amore, a sua volta obliato da lei. La mia ammirazione per Bergotte, ridiventato per me semplicemente l'autore dei suoi libri, senza ricordare più, se non in ricordi rari e del tutto separati, l'emozione d'essere stato presentato all'uomo, la delusione, lo stupore della sua conversazione nel salotto ricoperto di pellicce bianche, pieno di viole, in cui venivano portate così presto, su tante diverse console, tante lampade. Tutti i ricordi che componevano la prima Mademoiselle Swann s'erano in effetti scissi dalla Gilbert attuale, tenuti ben lontano dalle forze d'attrazione d'un altro universo, attorno a una frase di Bergotte con cui facevano corpo e immersi in un profumo di biancospino.